A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Scelsero il calcio per dimostrare a se stessi e ai propri carcerieri di essere uomini e non numeri. Uomini liberi che avrebbero poi governato un Sudafrica diverso, libero e democratico. Quella che vi raccontiamo oggi è la storia della Makana Football Association, la lega calcistica che i prigionieri di Robben Island, l'isola a 12 km al largo di Città del Capo, simbolo universale del regime dell'apartheid, dove Nelson Mandela trascorse gran parte dei suoi 27 anni di prigionia, riuscirono a creare e a gestire, malgrado i soprusi, i lavori forzati, le vessazioni cui erano sottoposti dal regime segregazionista di Pretoria. Chuck Corr, professore emerito all'Università del Missouri, ha raccontato la storia della Makana Football Association in un libro, More Than Just a Game, che sta per essere pubblicato in Italia. Così Corr racconta in esclusiva per Radio 24 la genesi della sua ricerca. Well, I was teaching at the University of the Western Cape in Cape Town. Stavo insegnando presso l'Università del Western Cape a Cape Town nel 1993 e un mio collega mi accompagnò in archivio e mi mostrò sette scatole piene di fogli e appunti, con sopra scritto a matita il titolo «Lo sport a Robben Island». Cosa pensai tra me e me? È ridicolo, pensai. Conoscevo Robben Island e certo non era davvero il posto dove uno poteva pensare di fare sport. Poi, appena aperte un paio di scatole, mi resi conto che avevo tra le mani qualcosa di eccezionale. C'erano centinaia e centinaia di lettere che i prigionieri si scambiavano tra loro e parlavano delle partite giocate, delle classifiche, dei referti arbitrali. Mi bastarono una ventina di minuti per capire che non solo erano riusciti a mettere in piedi un campionato di calcio, ma avevano creato una struttura organizzativa di alto livello, in accordo con le regole del calcio, così come definite dalla FIFA. Cominciai a studiare il materiale, tornai in Sudafrica un paio di estati per fare le interviste. Mi ci vollero 4 anni per venirne a capo, ma tutto nacque per caso, da un collega che mi disse di aver trovato qualcosa di interessante in archivio. Beh, lo era davvero. Le prime partite di nascosto, nei corridoi dei blocchi del carcere, con due stracci legati fra loro a fare un pallone. Poi un mattino del dicembre 1967, la prima partita vera, tra i Rangers e i Bucks, sul campo della prigione sotto gli occhi delle guardie. Ma come poter solo pensare di giocare a calcio a Robben Island? Ancora Corr. I prigionieri politici non erano assimilabili agli altri, per diverse ragioni. I politici continuavano a pensare al futuro, al dopo prigionia, a immaginarsi fuori e oltre Robben Island. Il loro motto, qualsiasi cosa facessero, era fare le cose per bene, convenientemente, non lasciarsi andare, restare concentrati sull'obiettivo. E allora, giocare bene a football non voleva dire rimediare un pallone di fortuna e prenderlo a calci, ma organizzare una vera e propria lega ben strutturata, con arbitri, giocatori, divisioni, magliette diverse, stemmi, commissione giudicante. E consideri che per scrivere ci vuole la carta. E questi prigionieri potevano scrivere una lettera a familiari ogni 6 mesi. E avevano bisogno di carta per provare a studiare compatibilmente con le disposizioni carcerarie. Eppure, appena avevano tra le mani un foglietto, lo usavano per scrivere di calcio. E il motivo è il seguente. Cosa sarebbe accaduto se due squadre si fossero sfidate al di là di quelle sbarre? Magari a Johannesburg, nel caso di una controversia. Ebbene, si sarebbe scritta una protesta ufficiale agli organi competenti. Ebbene, lo stesso doveva accadere a Robben Island. Non doveva esserci differenza alcuna tra quanto accadeva in carcere e il mondo libero, laggiù, là fuori. Così si formò la classe dirigente del Sudafrica libero. Lo stesso presidente sudafricano, Jacob Zuma, fu prigioniero, ma anche calciatore e arbitro a Robben Island. Sappiamo gestire una lega di calcio qui. Un giorno sapremo guidare il nostro paese. Era il messaggio lanciato dai prigionieri attraverso il football. Avevano abbastanza fiducia nelle loro vite da immaginare e sognare un Sudafrica libero. e da pensarsi a capo di questo Sudafrica libero. Me lo ha ribadito proprio un ex prigioniero, pensando al mondiale che sta per arrivare. Siamo stati capaci di giocare a calcio a Robben Island, mi ha detto. Cosa vuoi che sia a confronto organizzare un campionato del mondo? Un altro esempio. In più di un'occasione furono i prigionieri a smettere di giocare a calcio a Robben Island. Non per imposizione dei carcerieri, ma perché loro stessi sentivano che poteva esserci il rischio di essere manovrati, strumentalizzati. Non molti capiscono che questo non è un libro sul calcio, ma un libro sulla dignità umana, sulla volontà di poter controllare il proprio destino, malgrado qualcuno cerchi con la violenza di farlo al posto tuo. Il calcio cambiò anche il rapporto tra guardie bianche e prigionieri neri, spiega ancora il professor Corr. Tutti erano partecipi, erano coinvolti nella Lega, non solo i 22 in campo. Basti pensare che ogni partita aveva 300-400 altri prigionieri come spettatori. E anche le guardie, ovviamente, cominciarono a seguire i match. Il gioco era di alto livello e anche i guardiani cominciarono a fare il tifo per l'uno o per l'altro o a scommettere tra di loro su chi avrebbe vinto o perso. Capiamoci, le guardie erano brutali e cercavano di ostacolare la vita dei prigionieri in ogni modo. Ma uno dei pochi momenti in cui questo antagonismo si attenuava era quando i prigionieri giocavano a calcio o a rugby. Abituati a considerarli diversi in tutto, li scoprivano uguali a loro, con la stessa passione per lo sport. Senza contare che spesso le guardie provenivano dai ceti più bassi della società dei bianchi e molti dei prigionieri di colore erano per loro degli insegnanti che li aiutavano a studiare, a ottenere delle promozioni. Di fatto, prigionieri e guardie vivevano a stretto contatto in un ambiente molto ristretto. A parte i casi dei guardiani più brutali, stabilire una qualche relazione era inevitabile. Il football fece da apripista in questo senso e fece sì che le guardie si rendessero conto che quelli che avevano di fronte erano uomini, non numeri. Oggi Robben Island è patrimonio dell'umanità e la Macana Football Association è stata ufficialmente riconosciuta dalla FIFA. Ma c'è un legame tra il calcio giocato lì, negli anni più bui del Sudafrica, e i mondiali che stanno per arrivare? Chuck Corr non ha dubbi. Il fatto che la Coppa del Mondo di calcio arrivi in Sudafrica è il riconoscimento ufficiale che il paese è entrato nel consesso delle altre nazioni mondiali. È una specie di miracolo, quasi imprevedibile, se pensiamo a cosa era questo paese 50 o appena 20 anni fa. Sembrava quasi impossibile immaginare che il Sudafrica sarebbe diventato una nazione libera e democratica, senza una sanguinosa rivoluzione. E Robben Island è il luogo simbolo di questa lotta. E gli uomini che furono prigionieri lì più di ogni altra cosa rappresentano quanto fosse sbagliato il regime dell'apartheid e quanto sia stato giusto combatterlo. E credo sia giusto che a celebrare questo evento fondamentale per il paese e per il calcio mondiale non siano solo i politici. O meglio, oltre e prima dei politici, devono essere proprio coloro che giocarono a calcio a Robben Island, per di più nel pieno rispetto dei regolamenti della FIFA. Spetta a loro, per primi, celebrare il valore e l'importanza dello sport e del calcio. We should be celebrating the importance of football. Emozionante la storia del calcio a Robben Island, che fra pochi giorni potremo leggere anche nella versione italiana, nel libro Molto più di un gioco, edito da Iacobelli, e che avrà un'introduzione firmata da una pena d'eccezione, quella del grande Gianni Rivera, ex leggenda del Milan e della Nazionale, che è in collegamento con noi. Buongiorno signor Rivera. Molto più di un gioco, direi, ripropone il dibattito sul sempre complicato rapporto tra sport e politica. Legame inscindibile, secondo lei? La politica dovrebbe comprendere tutto lo scibile umano e quindi all'interno dello scibile umano ci sta anche lo sport. Poi che ci sia qualcuno che lo sport lo sfrutta politicamente in senso positivo e chi invece lo sfrutta e basta, purtroppo succede. D'altra parte la politica spesso approfitta delle situazioni che si possono creare e lo sport è uno di quei settori della vita quotidiana dove si possono avere anche diversi vantaggi se si sa leggere bene che cosa succede da quelle parti. Mi sembra che il testo ripropone anche il dibattito su quello che è l'efficacia del boicottaggio dei grandi eventi sportivi, no? Se n'era dibattuto, appunto, spesso se ne torna a dibattere in occasione delle Olimpiadi. Ebbene, la storia del Sudafrica libero è fatta anche di una serie di boicottaggi da parte del mondo libero nei confronti del Sudafrica, che misero pressione sul governo bianco a capo del regime dell'apartheid. Crede che questa sia una misura in qualche modo riproponibile, in qualche modo efficace, oppure anche in questo senso lo sport deve essere un mondo a parte? Ma io credo che lo sport non può fare parte del mondo a parte. Naturalmente il boicottaggio è fatto nei confronti di chi considera la libertà dell'uomo una cosa marginale. Direi che in questi casi è un messaggio forte e che potrebbe essere positivo, anche se poi finisce per così danneggiare degli atleti che si sono impegnati fisicamente, moralmente, psicologicamente per tutto un anno preparandosi alle Olimpiadi e poi non potendoci andare perché la politica vuole sfruttare quel momento per far capire che gli uomini devono essere tutti liberi. Nel leggere il libro mi veniva in mente questa considerazione che voglio condividere con lei. Noi siamo qui ad accapigliarci tra Mourinho, la lotta a scudetto, la Champions. Ai suoi tempi si discuteva della staffetta a Messico 70 o del fallimento contro la Corea. Ebbene, in quegli anni dall'altra parte del mondo appassionati di calcio ridotti in prigionia usavano lo stesso pallone, facevano girare lo stesso pallone per esprimere tutt'altri concetti, per lottare per la libertà e per la democrazia in un paese. Fa venire i brividi questa idea, eh? Beh, certamente è un fatto molto significativo. Lo sappiamo benissimo che nello sport c'è la parte romantica, la parte che psicologicamente ha un significato positivo, però poi c'è la parte più prettamente professionistica, quella dell'esasperazione che finisce per indebolire i valori dello sport, perché prendono sopravvento altri concetti, altri modi di pensare. E purtroppo è così. E questa è la dimostrazione che la società materialista che abbiamo costruito ha finito per fare più danni che positività. Riesce a individuare un filo rosso che in qualche modo leghi l'esperienza di Robben Island, questa incredibile esperienza di questa lega calcistica, e i mondiali che ormai stanno per sbarcare per la prima volta in Sudafrica e per la prima volta in Africa? Ma io adesso non so come lo vivranno questo momento, soprattutto i sudafricani, però credo che ormai tutto questo problema sia stato superato. Insomma, io sono stato molto colpito dal film di Clint Eastwood su Mandela, che uscendo dal carcere, diventando presidente, ha finito per chiedere ai suoi non la vendetta nei confronti dei bianchi, ma la volontà di mettersi insieme, accettarne le differenze per costruire un paese nuovo e sfruttando proprio la passione per il rugby che lo ha tutto sommato portato a vincere una battaglia importante. Insomma, ha chiesto ai suoi: dimenticatevi le vendette perché dobbiamo vivere tutti insieme come dei fratelli. Un grazie a Gianni Rivera e a Chuck Kaur che sono stati nostri ospiti oggi. Vi anticipo che la prossima settimana andremo a Robben Island per ascoltare le voci di coloro che vi furono imprigionati, che furono protagonisti della Lega Calcistica e che ora sono liberi cittadini in un Sudafrica libero. Grazie in regia a Daniele Teruzzi. Vi ricordo la nostra mail a bordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci. We'll be right back.